Hola, hola. Hola, hola, hola. E beh, Dani di. Buonasera Gianni. Come andiamo? Andiamo. Andando stiamo, piano piano. E fretta in fretta. Adesso c'è l'ambulanza, vai in fretta, non vai piano. Quello sì, quando si può andare piano si va piano. Cappa. Oia. Fra poco non c'è bisogno dell'ambulanza, non riesce più a camminare. Esagerato. Sì. C'ho tutti e due i femori che mi fanno male. Sono già mesi così. Ho fatto iniezioni, tutti di più. Ho fatto la lastra, non c'è nulla alle ossa. Adesso vediamo un po' cosa mi dice la dottoressa. Dovrei andare da un ortopedico a farmi vedere. Se è roba di reumatismo, che cosa cavolo è? Cava, quella è brutta bestia. Artrosi. Artrosi solo di avvercela, perché ho fatto la lastra e la spina dorsale c'ho artrosi. Quindi da lì ripercuote tutto. Cava. Ma già ci sono le cure già. Sì. Cure ne ho fatto tante, ma non ce n'è una che mi ha fatto bene, hanno tutte tappato e buh. Alle 12 ore ti tappano quando lo fanno del tutto, perché a volte ti allivia il dolore e basta. Bisogna trovare la cura giusta. Bisogna provarle, piano piano si quando si trova quella giusta. L'unico è andare da un ortopedico e ti sa dire cosa fare. Ci sono dei centri specializzati in queste cose. Prende la seduta e ti muore ne appurso. Vabbè. Se è scaricabile già, non c'è problema poi. Non lo so, perché sono privati, tipo quello che c'è al centro commerciale non è solo lì. C'è un centro praticamente che fa di tutta acupuntura, tutte queste cose qua. E quello lì è privato, non è convenzionato, né niente. Anche a Plataona, per dire, c'è un centro che fa i laser. E adesso curano anche, come si chiama col laser, le ulcere diabetiche. Col laser li curano. Cava. Ma dove c'è la camera di barbari in carrezza? Dottor Bolognini. Ho capito. Io da quelli di luna e sole andavo a farmi i massaggi per il collo. Ci lavora ancora la mia zia, non lo so. E sono molto bravi. È andata anche Liliana. Lì per il braccio, perché la notte non riusciva a stare in nessuna posizione, faceva sempre male il braccio. È andata lì, l'hanno messo a posto, però poi è tornata, dopo un po' di tempo è tornata. Lo so, sono quei dolori che devi stare sempre appresso. Adesso sto lottando di nuovo col collo io, che sto dando nuovi problemi. Ogni tanto ne ho una. Al collo come mai? Torcicollo soffro. Cervicale tutto, già, altro è torcicollo, adesso mi fa male la parte sinistra. Non ho fatto niente, mi vengono così all'improvviso. Non trovo la posizione, devo stare attento a come girarmi. Allucinante. Non pigliare voi più di adesso che tu vai a fare fuori strada. Con i colpi che prendi non ti credo che siano salutari. Lo so. Poi quando c'è la cervicale indosso sembra di stare in nave, che mi sembra di ballare. E poi la cervicale fa diverse cose, ti fa avere capogiro, ti sdoppia la vista in certi casi, insomma. Ma diciamo non è mai come le gambe ti reggono il corpo. Cioè, quando c'hai male alle gambe, qui che brutto, oggi dovevo fare la salata medical milucera. Alle 10, ma ha visto a mezzogiorno e 10, grazie a Dio, dalle 10 che c'avevo l'appuntamento. mi avevi ricatto e ad una manovra ti ci avevo l'appuntamento per fare la lastra al piede in via Roma, ovvero un parcheggio manca a pagarlo, allora l'ho dovuta mettere lontano e farmela a piedi. Lui cosa ho operato io? Sono dovuto andare, diciamo, a passo veloce, per quanto sia veloce quello che posso fare io, e con la stampella Gurrendi fino ad arrivare all'una meno 20, giusto sono arrivato, meno male, e me l'ha fatta subito perché ero l'ultimo, mi stavano aspettando. Cesso, un casino, è sempre peggio, per carità. Va bene, e quello non c'era al piede già. Cosa? E quello non c'era al piede, come mai? Non c'era diabetica, praticamente è successo così. Ho portato il cane a fare i bisogni, mi ha portato in questa aiuola, mi ha tirato dentro e c'era l'erba alta, io non ho visto che c'era un fondo di bottiglia con la punta e ci ho messo il piede sopra e mi c'è entrata nel piede, un fondo di bottiglia di birra. Mi hanno operato al piede, mi hanno tolto tutte le schegge, me l'hanno tutto svuotato il piede perché era pieno di schegge all'interno. La canna è cresciuta, tutto quanto, qui si è chiusa bene la ferita e hanno lasciato un punto per drenare, quello non si è mai chiuso, si è formato un callo attorno e non fa unire le due pareti. E ce l'ho 4 anni così, capito? Cesura. La luce, anche non mi sono diverse di persone così, con queste ulcere qua. Dove mandavano la camera iperbarica quando non riuscivano a saldarsi? Io l'ho fatta la camera iperbarica, 32 sedute ho fatto, Antonello. Ho fatto 32 sedute e mi era guarita, poi sono tornato al lavoro e mi si è riaperto. Troppo presto forse già, perché poi come sfrega la scarpa, basta un niente e si riapre. La mia si chiama ulcera da pressione, ma lo sai cos'è il problema mio? Che non si forma la canna, si rimane in una sacca all'interno e si forma il callo sopra, capito? Rimane calloso, quindi si spacca il callo e buonanotte. Non c'è stato nessuno che me l'abbia saputa curare, adesso al centro diabetico me la stanno facendo chiudere piano piano, però so sempre che anche se è chiuso, se ritorno al lavoro sono fregato, perché io sto in mezzo all'acqua, se io lavoro in pescheria sto in mezzo all'acqua, in più sto avanti e indietro, e già nei carrelli, e già negli scaffali, e già di qua, e già di là, buonanotte. Così è già, no, devi farlo poi all'asciutto, diciamo, anche se ti metti qualche cosa di protezione, però non deve sudare il piede. La sera quando attorno c'è tutto bianco, si forma la pelle bianca attorno. Io ho le scarpe ortopediche, io viaggio con le scarpe ortopediche, capito? Solo che quelle scarpe ortopediche per me sono state fatte male, perché mi hanno fatto uscire 2 unghie degli alluci, mi hanno fatto scaldare talmente il piede che si è infiammato e me ne sono uscite le unghie. Il cavolo! Capito? Poi le ho riportate, me le allargate di nuovo, però sento sempre che la pianta del piede non dovrebbe toccare, dovrebbe rimanere sollevata, invece ritocca quando cammino, quindi è inutile che lui mi abbia fatto questa scarpa ortopedica. Adesso anche il diabetologo se ne è reso conto che non è una scarpa giusta quella che sto mettendo, che non va bene, che me l'ha fatta male. Chi te l'ha fatta? Quella di via Zanfarino? Via Mendola. Ah, cavagava, perché è molto bravo quello di via Zanfarino. E da Pina ne ho comprato questa scarpa ortopedica e dopo 2 giorni mi è uscito il ferro fuori. Se l'ho portata, me l'ha cambiata, beh, anche quella che mi ha cambiato, difettosa, ne esce sempre il ferro. Cesso. Vai quello di via Zanfarino già. Lo sai cosa c'è? Cosa c'è? E io dove vado in diabetologia, il dottore di diabetologia è amico di quello di via Mendola, capito? Ehi, vabbè, cattivi se ne affutti. No, perché ti fanno il foglio loro, capito? Ti fanno il foglio loro e me la danno gratis, se no sarebbero 800 euro. Ah, ho capito. Anda bene, veda. Costa 800 euro la scarpa che c'ho io, costa. Le ho risolate, ma non sembrano molto per l'acquale. e poi lavorarci 8 ore in piedi con i piedi così. La mia si chiama ulcera da pressione, sì. Ho capito. Un bel macello, eh. Infatti non ci devo tornare al lavoro sicuramente. Sto facendo di tutto per andarmene in pensione, adesso stiamo guardando col sindacato cosa si può fare. C'ho 38 anni di contributi io, non è che ne abbia un giorno. Cava cava. Vedi un po', se riesci, fai quello che si può fare già. Beh, certamente che sì. Non posso stare a soffrire, ma a parte che così non ce la faccio a tornare, con questi due femori che non riesco a camminare, come faccio a tornare? Casino, eh. Io mi auguro che mi passino e allora ritorno, ma se non mi passa cosa devo fare? Statene a casa, è malattia. Sì, ma infatti, solo che la malattia poi finisce. Se no rientri un giorno, due giorni, stringerete e ti rimetti malattia. Non è più così, adesso è solare, anno solare, praticamente significa che se tu sei malattia, adesso siamo, facciamo a maggio, tu devi guardare da maggio di quest'anno a maggio dello scorso anno quanta malattia hai fatto, devi fare 141 giorni massimo di malattia, se ne fai di più l'Inps ti licenzia. Ah, un sì, eh. Cazzo allora. Quella fregatura. Prima già era così, rientravi 2 o 3 giorni e poi avevi 9 malattie, non ti potevano dire nulla, ma adesso non è più così. Adesso contano da un anno all'altro, capito? Tutto a giorni, eh. Andava, buona sapersi. Ma il contratto del commercio è così perlomeno, poi gli altri contratti non lo so, ma penso che sia per tutti. Chiamava, io non lo so, già adesso non è che non ne faccio malattia, quindi sono fuori dal mondo adesso, mi sto dando altre cose IMSS. Vabbè. Reddito di cittadinanza sarà. E allora? Ti stai inculturando su quella adesso? Beh, quanto è questo reddito di cittadinanza? Quanto vi danno? Parte il massimo da 700 euro, poi fanno i calcoli agli altri due anni lavorativi e i giochi sono fatti. Guarda quante persone è composta la famiglia e cicca tracca rock and roll, che fanno i calcoli. Ma lo possono dare sia a te che a tua moglie, così è? No, è uno per tutti. Ah, uno componente solo della famiglia, ho capito. E vabbè, ma c'è gente che lo sta usando in maniera sbagliata. Io sono d'accordo su quello, sul reddito di cittadinanza, però bisognerebbe usarlo per cose diciamo di estrema necessità, no? Comprare altre cose, cosa di bussudì, si ricavano, si comprano lo stereo, questo, quell'altro, non va bene. Devono comprare la cosa da mangiare, pagare le bollette, ecco queste cose qua, le cose necessarie, secondo me, e poi ognuno fa ciò che vuole. No, ma è così già, lascia perdere che non puoi fare quello che vuoi. Puoi prelevare al massimo 100 euro e ne fai quello che vuoi. La rimanenza, c'hai i blocchi dalla carta, puoi farti spesa, pagarti luce, affitto, acqua, queste cose qua, e boh. Se tu vai da un'altra parte te la bloccano, è bloccata, capito? E poi, come ti prendono a lavorare, perdi il reddito di cittadinanza e il tuo datore, cioè chi ti assume, l'azienda che ti assume, poi c'ha le agevolazioni sul contratto che ti fa, capito? Non paga molte tasse, molte cose vengono agevolate. Ah, buono. Sì, ma io ho sentito dire da gente che ha comprato altre cose, oltre fare la spesa, pagare le bollette, che sono andati in negozi di elettrodomestici e hanno comprato altre cose, non va bene. Queste cose te le danno per comprare determinate cose giuste, le cose necessarie, dai, per la famiglia. No, già, chi dice altre cose sono solamente cazzate, tranquillo, non è così. Non è così. È come la vecchia carta acquisti, che ti davano quella 60 euro ogni due mesi, no? 60 o quanto era, potevi fare solamente spesa, il resto era bloccato, non potevi usarla come volevi, se andavi a prelevare i soldi non te ne dava, per dire, e molte cose erano, c'avevi dei vincoli, capito? Non te ne neanche passavano alla cassa. Ma molti intrampugli li fanno, perché sono di sicuro di gente che ha comprato roba tipo elettrodomestici, queste cose qua. Non lo so già, non lo so come abbiamo potuto fare una cosa del genere. Perché poi se fanno il resoconto mensile, perché controllano, poi sono fatti loro. E se te la tolgono poi peggio per loro. Vabbè, comunque, io mi auguro che tutti gli altri si mettano la mano sulla coscienza e la usino con parsimonia la carta e comprino roba che le occorre veramente e paghino le cose che devono pagare. Casino, Ma sì, da che età la danno questo reddito di cittadinanza? C'è un'età, un limite di età? Non lo so già questo, non lo so da quanto, da che età, sì, da che età, per la massima età non penso ce ne sia, perché poi puoi fare anche la pensione di cittadinanza, cioè, capito? Cioè, il reddito è la pensione di cittadinanza, quindi continua. E questa dura un anno, poi devi stare un periodo fermo, poi la puoi richiedere, capito? Però entro l'anno loro ti devono cercare un posto di lavoro. Ah, ecco. Se non tu non trovi il posto di lavoro, continuano a pagartela però. Eh beh, certo che sì, perché non è colpa tua se nel frattempo non ti hanno assunto, capito? A meno che non trovi qualcuno che faccia modo che ti assuma col reddito di cittadinanza, capito? E allora a brevi tempi. E ti fai il lavoro e ti prendi anche il reddito. No, il reddito di cittadinanza lo perdi. Perché, ma ok, cosa ne so, devi prendere 500, devi prendere almeno 400 di stipendio, perché ti rimangono 200 euro di reddito di cittadinanza alla fine. Però se prendi 900, 1000 euro alla fine, perdi il reddito di cittadinanza, non te ne frega niente, l'importante è che tu lavori. Così tu prendi lo stipendio e trovato il lavoro, c'è le tasse agevolate. Vabbè, questo sì. Vabbè. Speriamo che questo reddito di cittadinanza non serva per eliminare le pensioni poi, perché se non bastano i soldi a voi non pagare le pensioni, io devo andare in pensione. Già, però stavo vedendo anche poco fa, stavo parlando di cittadinanza, che anche le quote 100 hanno spiccato il volo a richiesta. E il reddito di cittadinanza pian piano sta prendendo giri adesso, stanno aumentando le domande, perché le puoi fare il 6 di ogni mese e puoi richiederla, Ma all'inizio non c'è stato questo boom, perché ho seguito il televisore e si prospettava che ci fosse un boom proprio, invece no, dice, è stata una cosa molto tranquilla, sì, qualcuno, ma non più di tanto. Sì, questa quotacetta poi mi pare che duri 2 anni, sì, io non rientro, purtroppo non rientro, nemmeno il prossimo anno, rientro dal terzo anno, il terzo anno io, dal prossimo anno già me ne vado in pensione con la mia, perché io ho 5 anni di scivolo per l'invalidità e poi 38 di contributi, quindi il prossimo anno a me mi fanno la domanda per andare in pensione. Gava, deve essere che non abbiamo capito bene come funzionava il reddito di cittadinanza alle persone, già. Non lo so, perché io sono entrato e uscito all'ufficio postale e ho fatto tutto in 5 minuti. E nell'arco del mese, quasi un mese e mezzo, ho ricevuto notizie. Adesso il prossimo mese devo andare a ritirarmi la carta. Non sai cosa c'è, non è che non hanno capito, molta gente si vergogna di ritirare, dice io non voglio reddito di cittadinanza, io voglio il lavoro, ma intanto è meglio avere qualche cosa, no? Se quando trovi il lavoro è meglio che non muori di fame, che non c'hai i buffi dalla base dall'assa, o no? Quello sì, poco ma sicuro, ma come sto attivando io, se conosci qualcuno che ti possa assumere e faccia e fare tutto per prenderti con reddito di cittadinanza, che tanto lo può fare sicuramente, il gioco è fatto, così sei tra i primi e non stai lì, chissà dove cavolo ti spediscono dopo. E cosa ti fanno fare? Lo saranno tutti che accetteranno il lavoro, perché i suburbi bassi dei siciliani non hanno lavoro, però non accettano quello che gli danno, capito? Purtroppo è così, sì, quando li danno i soldi accettano, poi quando li buscano il lavoro mollano tutto perché non gli piace e troveranno un altro modo di fare i soldi. C'è gente che se ne inventa di cose, guarda, io conosco gente che non ha mai fatto un lavoro fisso e c'ha più soldi di me che lavoro, capito? Sì, vabbè, però già anche l'altro giorno stavo dicendo che se rifiuti già la prima chiamata, ti sta arrivando subito la finanza a farti i controlli. Ti controlla tutto per vedere come mai tu hai rifiutato. A volte che non c'è qualche altro ingresso, un'altra entrata, capito? C'è da stare molto attenti adesso già, non è più come prima, forse anche la gente va a dire faccio, diso, smonto, compro, che poi sono cacchi amari da risolverti. E beccheranno più di uno, perché quando c'era la zona industriale, quando davano, come si chiama, la cassa integrazione, se andavano in cassa integrazione prendevano già 1.200 così di cassa integrazione e poi si facevano i lavori in nero. Quanti ce n'erano, se hanno fatto la casa in campagna e tutto quanto, gridina così, si guadagnavano il doppio della cassa integrazione per 10 anni con la cassa integrazione lavorando in nero. E allora, già lo so, facevano così, perché prima quando prendevano i sussidi comunali, anni e anni fa, no, occupavano le case, prendevano i sussidi, poi iniziavano a comprarsi macchina, avevi subito con la macchina nuova e quella e quell'altro, e tiravano un bel po' di soldi all'epoca. Poi quando hanno iniziato a capire la tifona, hanno iniziato a chiudere i rubinetti e poi siamo arrivati a quello che siamo arrivati. Daniele, avanti. Antonello, dammi il controllo che sto provando l'MB più 4, come sto uscendo? Bella modulazione, Antone, se puoi amplificarlo un pelino ancora meglio, mi infatti ho controllo anche da Gianni. Più di così non posso amplificare, è a manetta. Va bene, Pompù, bella chiara e pulita, vai già. Sì, non mi ha manco salutato a me, io li devo dare il controllo, cazzo. Avanti, Antone. Ciao, non ho fatto manco ascolto, figurati, sono tanta sbarattura. Ciao Gianni, ben sentito comunque, com'è la popolazione di questo MBP4, va bene? Ehi Antone, già va bene, va bene, va benissimo, benissimo. Su che apparato l'hai messo? Nel 2009 l'ho installato. Va bene, chiara, lo sai come le MBP4, non è tanto amplificata ma è bella chiara. E adesso dovrebbe essere più... beh, dove sentimi meglio adesso, no? Sì, adesso sì, cosa ne hai fatto? Mi sono avvicinato, poco fa ero distante quasi un metro. Va bene, ha voglia che va bene. Cava, sono contento. Vabbè, riprendetevela un attimo, là, che sto finendo questo lavoretto qua. Capo, noi stiamo parlando del diritto di cittadinanza. L'ho già ritirato io. Mi sono occupato anche il microfono. Me. Aspetta, però poi ne sono pochi a disposizione i contanti, No, veramente l'ho comprato con la carta. Hai capito? Mi sono preso il CVC e il microfono, mi sono preso. Allora, buona sorpresa, Antone. Sì, funziona, puoi andare tranquillamente alla Fusaro, comprati quello che vuoi. Anche baracchino ti puoi comprare. figurati, perché prima ho chiesto, domani ho detto prova e ho detto un po' se funziona la carta. Ho detto certo che funziona Antonè. Allora ho detto dammi il microfono, c'era solo uno. Ma ho pigliato quello e il CRC che dovevo fare un lavoro insieme a Giuseppe Livicino lì alla cimenteria. Vedi? Vedi? Perché lui insisteva che lo si poteva fare con la carta, Antonè. Invece sono di gente che ha comprato altre cose, anche elettrodomestici, eccetera. Anche se io non lo trovo tanto giusto, perché li danno per comprarsi la roba da mangiare, per pagare bollette, non per comprare queste cose, ma comunque ognuno fa ciò che vuole. Oh Antonè, hai provato a vedere quanto puoi prelevare in contanti? Massimo 100. Però mi hanno dato 700 euro a me, figurati. Quindi sono andato bene, Giuseppe mi hanno dato 500. Ah, ma aspetta Antonè, forse non sai perché. Perché in base a quanto puoi prelevare, che mi sembra massimo 200 euro, dipende dal nucleo familiare, stavo leggendo, proprio sul sito ufficiale dell'INPS, in base a quello puoi prelevare, capito? Boh, io ho prelevato 100 e da lì poi il resto ho preso tutto con la carta, capito? Ho fatto anche la spesa da ieri in farmacia, mi sono pigliato un bel po' di roba che mi mancava, e ho fatto la spesa ieri e tutto. La cosa me la sono comprata in contanti, non mi sono fidato io. Sono pigliato 4 lattine di birra per fare la prova, ma l'ho pigliato in contanti, non con la carta. No, ma quella passa Antonè, vai tranquillo, lo facevo io, me la passavo a me, vino, birra, quello che volevo. Quello c'era anche l'altra carta, capito? Già fa, solo a Città Mercato facevano usurie, ma per tutto, prendevo i pannolini e niente, prendevo altre cose e niente, carne, roba da mangiare, detersivi e basta, molte cose me le passavano, andavo all'Eurospin e passavano tutto quanto quello che c'era. Ah, già va bene, capa, più che altro le cose, ho fatto la prova e basta. Poi ieri mi sono andato da Rico, mi ho bevuto una birra e gli ho portato due trappane che c'avevo. Mi ha fatto, dice, aspetta che ti do tre bottiglie e te le porti a casa. E detto ce l'ho già, gli ho detto a me. Arrivederci, ha detto ci vediamo, ho detto domani o dopo domani, ho detto. Me la bevo qua, direttamente al circo, ho detto, basta, senza portarmene a casa, cosa devo stare con le bottiglie in mano. Quindi vado lì e me la bevo là, quando c'ho voglia, tanto c'ho tre bottiglie pagate. Andale, riprendi già. Non si sa mai che poi non c'è la scorta. No, se no diventa accetto. Andale. Io invece sai cosa mi sono comprato l'altro giorno? La vodka, quella alla pesca. È buona, eh? Ma dopo che ne bevi 3-4 bicchieri di quella lì, incomincia a nauseatemi la vodka. La vodka è come il limoncello, eh. È buono, però arrivato a un certo punto poi c'hai il sapore del limoncello tutta la notte camminando. Ma io la uso con parsimonia, quando viene gente offro, me ne bevo un tantino ma a fondo di bicchiere, ma non ne bevo chissà quanto, ogni tanto, ogni voce di ogni babba, non è, adesso durerà anni chissà cosa. E mi è piaciuto molto il Melis con la cioccolata. Se no già, lo so già fai, metti il vodka con l'acce, il succo di frutta, non so quanto diventa buona. Davvero? Non voli più, diventa come le ciliegie, poi vai a alzarti è un problema, eh. Allora, se, no, ma io non sono grande bevitore, io ne bevo ogni tanto, se viene gente offro, magari te l'ho detto, ne bevo mezzo dito, nel senso non in verticale ma in orizzontale. Ah vabbè, aspetta un secondo, mi stanno chiamando giù. Come? Ali, siamo alla bicicletta, ce l'avevo io, le BBQ5 nuovo, mai usato. L'ho dato l'altro giorno, l'ho venduto. Sì, vabbè, non ne sapevo niente, la verità. Anzi, io ce l'avevo nel DC4, se ricordi, l'avevo attaccato al Kenwood. E poi l'avevo venduto a Franco California, perché non me ne facevo niente. E poi invece ho preso, me lo sono ricomprato ieri. Anche perché adesso l'ho adattato a questo baracchino qua, però c'è una lampada 7, capito? Esce molto più forte come baracchino, quindi se metto un MP4 è tutta un'altra storia. C'è una radio con l'apparato là, che è una cosa allucinante, molto più forte di questo. Ma tu hai preso il più 5 adesso, quanto te l'ha fatto pagare il più 5, per una curiosità? Oh, ho preso più 4, 35 euro l'ho pagato. 35? Eia, il più 5 veniva a 50 qualche cosa. Io nuovo l'ho venduto meno di quello che paga tutto e K c'erano su internet MP5, Sadelta, tutte 50 euro mi pare che era. Ma Sadelta se non è buono fa difetti, cosa? Il mio grazie a Dio ancora è nuovo, va bene, va bene. Ma dice che si consumano il carbonello, cosa c'ha dentro? Ah, oh, c'ha il coso, c'ha le lamelle, c'ha capito, nella levetta della portata all'interno ci sono le lamelle. Se è da polvere, capito, si consuma. O al limite, più che altro sono gli leader, quelli che non fanno le balle. Una cosa è il potenziometro che rimane tappato, ma invece lo slider ti entra la polvere dentro e sali su e scendi giù, sali su, scendi giù e ti mangi i carboncini, capito? Sì, ma io diciamo che lo lascio sempre la stessa regolazione. Se gente mi dice abbassa, sei buonanotte, lascialo così, da voi non funziona bene. Ah beh, quello già è vero, sì, in realtà magari a qualcuno che entra, uno ti fa sollevare, l'altro ti fa passare, e quindi è un casino. E basta passare dal macchinino, così almeno accontenta tutti, e non è tocco di niente, in avvento, ma anche quando le ho toccate non mi hanno mai dato problemi di slider. Vabbè, meglio così. E quindi adesso torna a lavorare, vai. Lo spero, se mi chiama, sono in attesa, noi tutto dobbiamo consegnare questo foglio e all'ufficio di collocamento, in modo che siamo disposti a lavorare. Poi si vedrà se ci chiamano, se esce qualche lavoro, se non esce qualche lavoro si attacca un'altra, quella lupa. Non c'è nulla qua a Sassari, lo sanno tutti, non è che non lo sappiano, capito? Quindi l'unica cosa, se si libera magari qualche posto di usciere, qualche posto di birella, roba così, una volta fatta questa quota 100, se dovesse esserci qualche cosa, qualche posto, se fa entrarci, me la introduce la BNAP, anche se è attissi, usi, non me ne fotte proprio nulla, l'importante è uscire da casa e stare e lavorare, in modo da passare l'ora. Ma tu pensione di invalidità non è prendi? No, c'ho 67% solo per il momento. Adesso farò le ultime visite mediche, vedo di farmi l'aggravamento, se faccio l'aggravamento poi mi faccio la domanda di pensione di cittadinanza, in automatico, capito? Posso riprendere 300 euro, ne piglierò 700. E poi ti fanno come col mio amico che ha avuto un incidente, è stato operato 25 volte, c'ha tutta la gamba di ferro praticamente ricostruita, e a volte siccome lavorava all'industriale si gonfiava il piede e così, è andato a fare l'aggravamento, ci aveva l'80 e gli hanno dato a 67, gli hanno abbassato. Io da 46 mi hanno dato 67 dopo che ho fatto causa all'INPS. Però nel foglio che mi hanno dato loro ho fatto i conteggi e c'ho 100% in teoria, hai capito? E invece per secondo la testa loro, ho capito, non mi hanno contato il resto, quindi bisogna che faccia per forza l'aggravamento, fammi il avvocato e vedere se riesco a fare qualche cosa, capito? E loro quando vedono gli avvocati si assuzzano e mollano subito, se no se non ci sono avvocati di mezzo fanno quello che vogliono. Infatti questa vecchia si è incazzato, e gli ha detto se era d'accordo con la Boeri, che allora incentivava i medici per non dare le pensioni e abbassare come si dice l'invalidità. E facevano così prima, sì, in premio di maggioranza in pratica, se tu meno ne davi di pensioni e più pigliavano loro, capito? Il discorso è quello, ma c'è tutto là quella frase. L'unica cosa è armarsi di avvocato e una volta che c'è tutti gli effetti medici, ci va l'avvocato, ci va, io faccio solo la visita, poi si arrangia lui, con l'Inps. Vabbè, dai, speriamo bene, speriamo che ti trovi un lavoretto almeno per distrarti, anche di tecnico. Avanti. Anda bene veda. E quindi a poi? E allora, come andiamo su? Già andiamo. Meglio così, sono contento solo. Aspetta che adesso cambio baracchino, tolgo il 2009 e metto l'altro tassetto e vediamo cosa cambia. Se esce più forte o più basso questo microfono. Aspetta un attimo, due minuti. E cosa già? No, ho fatto Susanna, se lo ricordi, pitu pitu. Ah, pitu pitu. Ogni tanto me ne veni una. Ogni tanto anch'io, non mi ricordo qualche cosa, lo guardo su YouTube. E oggi stavo guardando i merindiani, i pappagalli cenerini che parlano, sono una cosa troppo bella, solo che fanno un bel casino in casa, urlano, fanno i pappagalli, così i merindiani fischiano. Vito, il mese scorso sono finito a Valle Iduria a fare una dimissione, sono entrato in questa casa, è proprio all'ingresso del paese, dove sono quelle villette. Cavolo, questo era il vaso di pappagalli. Davvero, ma di quelli grandi? Grandi e piccoli ne aveva, e tutte le grandezze. Ma liberi così? No, erano già a far la nanna, però a quella giornata ogni tanto qualcuno lo libera. Sono passioni, io ho conosciuto una ragazza che ne ha comprato due di pappagalli, di quelli che parlano. E una ha detto che è un po' carino, l'altro è bravo, parla tutto quanto, però ti sta sulla spalla, invece questo qui dice che l'ha preso sulla mano, a un certo punto si è girato e gli ha beccato la mano, gli ha stracciato un pezzo di carne. Lo so. È quello che hanno, quel pappagallo che hanno arrestato all'estero, che lo usavano come palo. A terra. Ma ha detto pure a Rai 1, non ci stavo credendo quando lo stavo leggendo, poi l'ha detto a Rai 1, al telegiornale. In pratica questo l'avevano estratto per quando vedeva la polizia o insomma le guardie. Questo era uno spacciatore, no, un trafficante di droga era. Come li vedeva, allora metteva un fischio, lui sapeva che stavano arrivando e faceva sparire tutto. Cazzo, allucinante. E questo qui da mandava i baci, questo che ho visto io di pappagallo, mandava i baci. E diceva, come fa? Poi lui ripeteva, come fa il cavallo? E lo faceva bere, poi il galletto come fa? Tutto lui si faceva domanda e risposta, come gli diceva la padrona, il galletto come fa? E lui ripeteva, no? E gli faceva il gallo. Gesù Maria. Oh, ioia. Antone, ti ha saltato questa radio? Ehi, guarda se è cambiato qualche cosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Orecchio sembra più forte. Più forte è questo baracchino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sembra. O no già? Che cosa? Che più forte? Prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Guarda un po' meglio o peggio è dell'altro. No, sta anche innescando, Antone, non mi piace qua. Prova a premere la portante e non parlare. Acceso. E allora è roba dei lirica, grazie, mi sembrava un innesco. Allora, dopo sì. No, ma è pulita, non c'è nessun innesco. Sta portando appresso tutto quello che c'è attorno. K, se attacco questa alerta è tutta una tagumba, e aspetta che attacco questa alerta, questo baracchino. Questa alerta è buco di fa. Vedi, io sto usando un microfono normale qua, come sta andando? Questa è buona già. Non sono salito ancora da mamma per vedere quei microfoni. Vai a vederlo. Ah, questo qua è il microfono normale del Magno. È proprio l'originale. Questa è salita, ha cambiato qualcosa? Abbassa, Antonè. Ah, visto, questo sì che pompa. Questo è salita, amico. Il CM40 special. E ma noi su un televisore, se no sentite più televisore della voce, della voce tua. Ehi, adesso spengo il televisore, anche se vuoi basso basso, figurati. Ma è troppo forte. D'accordo, aspetta che spengo il televisore. Cava, cava, cava, cava. Una modulazione che gli va, zero. È tutta un'altra cuba, tutta un'altra cuba. No, già andava bene anche l'altra, niente da dire. Cava, cava, cava. Vabbè, Salerno è quello che ho io sul Galaxy. Ce l'ho anche io, Salerno. Non ho fatto scambio con un MBP5. E va un bel bene. Nuovo, nuovo, nuovo. Cava, cava. Mi ho trovato... Mi ha passato un 4,40 a 175 euro. Sai, ma la sottivare c'ha radio. Magari c'è gente che non ha più voglia di modulare, può darsi pure. Bisogna scrivergli che cosa c'ha, perché se non lo mette vuol dire che non c'ha nulla. Dove l'hai trovato? Sei mesi. Però è a Punta del Gazzino. Granite City. Illinois. Ma cacchio, è sto posto. In America, America, America. Che cavolo. No, già se ne sa dove è allora. E comunque è stato a poco. Anche perché tu, se fai arrivare qui in Italia, devi pagare la dogana. Nuda, nuda, so. Non so, ma stanno apparendo un sciarada di 4,40, tutti dall'America, a pochi euro. In pratica sarebbero 196 dollari. Sì, ma tu devi pagare le cose, quindi sarebbe inutile. La dogana devi pagarla per forza, quindi se la fai, mettici altri 200 euro di dogana e ti dai intorno ai 300. 90 euro di spedizione ci sono. 90 euro di spedizione, prenditelo. Prova. Vai, non mi fido, Antonè, prima che me lo blocchi la dogana e poi ci butti 200 euro, 300 euro così. Dovresti chiedere a qualcuno magari che c'è qualche negozio, capito? E te lo fa tirare direttamente da lì, che forse magari gli viene anche meglio. Poi scritto in inglese non si comprende manco nuda, no? Qua c'è scritto ricondizionato dal venditore. Va bene, già sarò ve. Ma l'unica è prenderla come ho fatto io. Io 140 l'avevo preso dal venditore, che praticamente aveva anche il laboratorio dove riparava cable, eccetera, eccetera. Prima di darmelo me l'ha tutto controllato e mi ha detto che era perfetto, che non era mai stato aperto né niente. L'ho pagato 300 euro ed era un bombo nuovo, ma con grafico. Così va bene, perché sai a che rivolgerti, ma qua non sai a che rivolgerti, capito? Mi esce di un altro. Tutti da New York, Buffalo. Cazzo. E questo ne vuole 201 euro. Il 4,40 sat. Ehi, noi li vendono così. Forse non li danno più tanto valore, boh. A parte che questi apparati non perdono mai valore, boh. Se c'hanno medi anni e mai perdono valore questi apparati. Ma qua se guardi su eBay, su subito ne vogliono dare 400 euro in su. Il più scalcino te lo danno a 400 euro. Ehi, è così. anche qua è così, anche qua li vogliono 400 euro, se tu lo compri a Sassari da qualsiasi persona le paghi dalle 400 euro in su. Lo va a chiedere a Walter se ne ha qualcuno in più. Mi, questo, 381 euro. Questo lo avevi usato. Ah, questo è in Italia, eh? Aspetta. Compra subito 452 euro. Se no è 381 euro. A offerta. Ma non è offerta, è a rilancio. C'è l'asta. All'asta. Sono 15 di spedizione. Ma non sai mai se è buono, è una scatola chiusa da niente. A me mi è arrivato un apparecchio che praticamente non serviva a nulla. L'ho acceso perché aveva alternata, insomma, una battuisci di gabbo. Quello è il problema. Vabbè, questo è l'8,50. L'8,50, 4,52. Ah, neanche tanto. Sì, ma sono quelli gli apparecchi, te l'avevo sempre detto Claudio, quali sono i migliori. Sono i 140, i 4,30 e i 4,40, quelli che vanno bene per la 27. Cava gaba, quello sì, io sto guardando le offerte, adesso c'è l'accordatore, 194 euro, c'è la linea del K. Cava gaba, prenditi un apparato normale, voglio dire a fuggi. Vabbè, in previsione ci arriva questa bella patente. Ti vuoi patentare? Tentando ci sto già. Studiando? Cava. Vabbè, mica non cambia nulla lì. Ce n'è più qua di gente che là. Vabbè. Una cosa in più. Vabbè, quello sì. Te lo dice tutti più apparati, ti conviene prenderla. Ma ti devi pagare anche due concessioni poi. Una cosa irrisoria, Alla fine costa meno quella da rilevatore che quella da CB. È vero, è vero. Pomponio! Aspettate un attimino. Cava. Anda benemeta. Il Cobra non ti piace già? Questo 29LX, lo conosci? 29LX, che marca è? Cobra. No. Non c'ho quello io, perché? Questo c'hai. E quello che c'ha il display digitale, eccetera, eccetera. Non lo sapevo che ce l'avevi. Ce l'ho. Se vuoi te lo faccio sentire. Ti ho messo, ho applicato un microfono un po' così, dai. Di quelli... DM1000. Oh, ragazzi, mi sentite? Avanti Claudio, buonasera. Ciao già, buonasera. Sto usando il 590, però sono con la direttiva, come il segnale di date già. Aspetta che controllo. Non voglio vicino. Prova a vedere. Guarda a vedere. Ah, qua sì, 9. Vabbè, perché poi l'azione orizzontale, è chiaro che cambia segnale. Va bene. La radio com'è? Meglio del 440 o peggio? Ma io dico che è più guerriera quello del 440. Sì, vabbè, questa non è che posso tirare su tanto. C'è un processore inserito, ma già sta rullando forte. Quindi così è col processore. E così è senza processore, vedi? Va bene. Mickey Gain mi sta leggendo sul display, ce l'ho a 2, fate il conto. Però la sento molto forte come radio. Daniele, a te com'è? Guarda, il segnale, è appena calato, ma non fa niente. La radio qua è legge un tantino più bassa del normale. È tutta digitale. No, sto andando con la tre elementi dei 10 metri, però la polarizzazione orizzontale, voi siete la polarizzazione verticale, quindi è chiaro che il segnale cambia, perché è puntata a 280 gradi, quindi verso i punti. Vabbè, però già esce, dai. I watt sono una trentina. bene, cavolo, c'è un avviso col processore, il processore, Vicla. Ehi, vabbè, questa in AM non è che non è può fare miracoli, ma posso tirare su sino al 100%, ce l'ho al 20% il processore, è tutto digitale, segna tutto nel display, capito? Va bene, va bene, sento anche la ventola perché sono in cuffie, quindi già va bene. Vabbè, dai, proseguite che vedo un po' di fare qualche altra prova in HF a vedere come si comporta questa radio. Claudio, scusami, 8, ho guardato con gli occhiali bene, le 8, non 9. Sì, beh, normale, già, sono una polarizzazione orizzontale, io sono in direttiva, quindi è chiaro che è così, però già va bene, dai. Non c'è problema. Ma sento un bel alta io come modulazione, sento molto forte. Vabbè, dai. Riprendete che faccio un paio di prove in banda laterale. Ma non la puoi puntare verso qua per vedere se aumenta il segnale? È chiaro, questa è dei 10 metri l'antenna, non è della 27, no? Che segnale vuoi che aumenti? È girata, diciamo, la punta è verso di te, però questa non è un'antenna per la 27, no? Quindi sto andando in accordata stazionale, non ce n'è, c'è 1-1, però ci vuole l'antenna specifica per andare bene. Ah, ecco, vabbè. Andate. Siamo qua, Claudio. Avanti, Daniele. Andavere lei da qua, quando vuoi già siamo qua. Non c'è problema. Pomponio l'hanno fatto, E cosa la vedi? Non lo so, stava combinando. Adesso faccio con l'altra antenna, Gianni. Con quella grande, questa è quella piccola, la monobanda per i 10 metri. Adesso comodo, vado con l'antenna, quella con l'altra antenna, vai, da 3 elementi, 10, 15 e 20. Quella grande è grande, come quella che c'hanno tutti, dai. Vediamo se riesco a girartela bene. A vedere se aumenta il segnale. Aspetta un attimo. Sono qua. Cavagala e cavagala. Danielitos. Vediamo un po'. Vediamo se. Promeggia. Questo qua è un altro paio di maniche, adesso sì. 9-10, sì. Abbassa la radio adesso, Cla. Guarda che topolte. Ehi, c'è un abisso. Ma è sempre la stessa la cosa. La radio. Ah, ecco, ho toccato. Aspetta che avevo toccato una cosa, eccolo qua. Eccolo qua. Com'è adesso, bassa? Va bene, senti, va fino la ventola. È forte come radio. 9-10 solo, Gianni. Ce l'hai puntata sopra, tu gli l'attenuatore. E dove siete andati a finire? No, io sono qua, Cla. Oh, sento degli splatter, chi è? Anch'io li sento leggeri. Prova, Gianni, guarda per il segnale. Sì, c'è un attenuatore perché ho dato il controllatino ieri. 9-20, sì, dai. Vedi che questa è diversa dall'antenna. Questa era 3 elementi, quella là era la monobanda. Va bene, dai. Ok, continuate. Cavagala. Come ti stai divertendo a usare le direttive? Sì, così per farle può andare, visto che non le uso molto in HF, allora le ho messe al commutatore della T230 e ogni tanto vado anche con la direttiva. Quando avrete il segnale che è un po' più basso, vuol dire sono in direttiva. E a fare girare i bottoni, che è quello importante, se no si inchiodano. E infatti l'ho fatta girare. Cappa, Daniele, avanti. Cavagala, ma chi c'è? Nei canali vicini, che mi stanno ammazzando. Lui non sento nessuno, boh, aspetta che qua. Ah, io non sento nessuno. No, io già sento qualcuno, non so dove sia, però. E magari se la 131 sono lo stesso canale, camionisti. Il canale 9 sono camionisti, so. Ah, cavagala, non mi stanno dando tanto fastidio, la verità si dica, però ti sento i colpi. E nel canale 9 sono. Io non sento nessuno, aspetta che guardi. Cara, cara. Ma sicuramente prenderanno colpi pure loro adesso. Camionisti sono, sì. Tagliarizzare. Non lo sanno che il canale 9 è il canale di emergenza e lo usano così, a sproposito. Mi, aspetta, guarda, facciamo due cosette. Guarda, ora la cipolla. Ah, ci sei già? Sì, ci sono. Adesso ti do la stoccata. Accendiamo i motori. Se accendi i motori è una sagosa. 340 la Daniele, una saguba. Cosa qua? Sì, cavolo, un'altra cuba è. Questo è 440, è l'analogico, non c'è niente da fare rispetto al digitale. Va bene anche digitale, ma l'analogico si rimangia sempre. Questa è la modulazione che piace a me. Per amplificazione è la radio chiara. No, sei pronto, te la porti via questa radio, non c'è problema, io già vado col 590 e col 430. Ma vero, Zegra? No, buffoletti. Va bene, faccio di tutto. Questa è revisionata da Fabrizio, allineata, è perfetta. Questa è quella che avevo comprato da Roberto. L'aveva tutta rimessa in sesto Fabrizio. È nuova, perfetta, è una bella radio. Ottima per la truppa. Sì, ce l'ho 4,30, io ce l'ho comprato 5,90. Ne ho venduto anche un'altra da poco. No, non ne tengo molte, sto facendo praticamente vendendo e ricomprando nuovo, capito? Però altri tipi di radio. Io voglio il 4,30, Claudio. Manco se me lo paghi a prezzo d'oro, trovo 4,30 io. 4,30 me lo tengo. Oh, 4,30, mi adesso come te lo faccio sentire. E te già? Abbiamo voluto dare nel DAC, nel 4,30, quelli che voglio non me ne dà mai, ma tutti agli altri, dopo 5 giorni magari ne ha venduti a un altro. Oh, eccolo qua, questo è il 430, sempre MC60, ho lasciato l'altro giorno a 30 watt, lo accendo sempre a 30 watt, no, 430 non si tocca già. 4,30 al 4,40, come dice il trasmettitore, se lo mangia, è molto più meccanico, ha meno difetti, capito? Ola. Già va bene. Sì, già lo busco. C'è il telefono là dove dico io. Che si sono separati, è stato tutto in catasfascio, perché prima lui faceva il tecnico, riparava Kenwood, eccetera eccetera, e ne aveva sempre, quando capitava nuovo mi avvisava, mi mandava anche il messaggino: Gianni, guarda che mi è entrato uno nuovo come piacciono a te. Niente seria, ma dove ti avevo dato il telefono io? Cosa? Dove ti avevo dato il numero del telefono io? No. Dove compravo io, non mi ricordo come si chiamava. Non me lo ricordo più. Tu stai dicendo New, no, non è quello lì. Quello lì sono in gamba tutti e due. Troppo in gamba, gentilissimi, veramente in gamba. No, non è quello lì. Ce l'ho il numero memorizzato dal telefono. Oh, aspetta, mi stanno chiamando giù. La tecnocomunicazione, stai dicendo tu che si sono divisi. Esatto, si sono separati marito e moglie. E quindi hanno fatto due laboratori, ho diviso dal negozio, insomma, tutto un casino. Prima lui come negozio gli entrava una parecchia seconda mano, mi mandava il messaggino: Gianni, guarda che ne ho uno, per dire un 440 nuovo. Te lo lascio per dire, lo sto testando, eccetera eccetera, tutto testato. Prima di mandarli poi te li testava tutti. Sì, io ho comprato alcune cosette, niente di particolare. Però le radio USI HF io prendo tutto la Siesong. Siesong e Montagnani, capito? Sono gente fidata, gente che ti manda le apparecchiature in garanzia. Va bene. Sì. No, quell'altro da Danilo. Persona serissima, quello se ti dice che ti manda una cosa, te la manda, non è come te di guarda, se parlavo con lei mi dice, ma ascolti Gianni, no, non so cosa dirle, però la faccio chiamare da mio marito, dopo usati i 10 minuti mi chiamava. Gianni, ho saputo che mi ha telefonato e mi spiegava la cosa, capito? Poi mi diceva, perché apparato ti serve questo microfono? Per, ti faccio l'attacco io, non ti preoccupare, per il Midland per dirti. E mi faceva l'attacco, però andava già con l'attacco Midland per dirti, no? A me mi ha fatto tutti gli adattatori, io posso usare, invertire i microfoni, ICOM con Kenwood, Kenwood con Iaesio, Iaesio con Kenwood, sono tutti gli adattatori, io ho capito, li ha fatti tutti lui. Io oramai Claudio ho perso i contatti, perché da quando a me e a Maestrale ci avevano rubato 200 euro, ho paura adesso a comprare lì, però dai negozianti mi fido, ma dai privati non mi fido più. Si ha fatto 400 euro la mela Salvatore, capito? Se da me no, da me 200 non ce li ha fatti. Io gli ho mandato 200 euro per un TS 2000, non mi è mai arrivato, mi ha bruciato i soldi. Vedi, io ho fatto in tempo a fermare un mio amico di Roma che mi ha detto, guarda, ho trovato Gianni, io tu lo sai benissimo che ho anche la passione della fotografia, ho trovato una EOS della Canon che costa 1200 euro con teleobiettivo 135, 200 eccetera eccetera, e l'ho trovata per 700 euro e l'ho detto, e com'è il pagamento? Western Union, non i bigliacchi, ti fregano. Guarda, e dice mio amico l'ha già spedito, non ha aspettato 5 minuti, ha spedito subito tutto i soldi. Beh, l'amico l'ha divutito, a lui ho fatto il tempo e tempo a non farlo fregare, perché era la stessa organizzazione. Avanti Brecco. Ciao Giancarlo della Corte, ben sentito. Ieri si è sparito, ti abbiamo chiamato, che cosa è successo? Buonasera. Che portatile c'hai? Che marca è il tuo portatile? Ah, ho capito qual è. Comunque arrivi bene. L'antenna, che antenna stai usando? No, già sta uscendo. Meno male, guarda, è difficile che col portatile arrivi così lontano. Claudio, tu lo senti bene? Ho voglia che lo sento bene. Santiago 5, Radio 5. Ciao Giancarlo, buonasera, ben ascoltato. Claudio Sparviero da Sassari. Ciao Giancarlo, buonasera, ben sentito per la prima volta. Mi pare averti sentito anche ieri, però poi mi sono dovuto allontanare dalla radio. Arrivi molto bene, segnale 5, Radio 5. Complimenti per il tuo portatile e per la tua antenna Vega. Molto bene, non so che antenna sia, ma comunque se è un'antenna di macchina sta funzionando magnificamente bene. Arriva bene, arriva molto bene. Ma stai usando, hai il microfono oppure usi il portatile, il microfono del portatile? È ottima modulazione, bella corposa, buona, buona, buona. Complimenti, complimenti. La Corte, non è neanche molto vicino. Via La Corte, c'è Isidoro, non so che fine abbia fatto Isidoro della Corte, lo conosci? Ah, ho capito, capito, e lì c'era un grandissimo CB, brutto come la minchia, ma comunque era molto bravo, vero Gianni? Ehi, lo conosco Isidoro, come nominativo, non lo conosco come persona, la verità, ma come nominativo lo conosco. No, no, io ho avuto piacere di conoscerlo. Praticamente la fotocopia di Ligabue, quello che fa i quadri, capito? Come si chiama Ligabue questo? Come Falcone. Certo, Falcone è molto meglio. Lui è proprio brutto come la minchia. Allucinante, speriamo che non escano tutti così alla Corte, bobo. No, beh, sicuramente Giancarlo nella voce si sente. Io scherzo, ma Isidoro è un grande CB, una bravissima persona, educatissima, solo che è sparito, è sparito. La cosa brutta è che ogni volta che andavi a casa sua toccava mangiarti le uova crude, ragazzi. Mamma mia come sto, tutto pieno di galline era quel posto, Avanti Giancarlo. Vai, prova, prova. Sì, sì, io ti sento, segnale 1. E io lo sento, ma non capisco cosa dici. No, il qua arriva, segnale 1. Segnale 1. Però l'altra radio va molto meglio, Giancarlo. L'altra antenna. Mi cruce l'altra antenna, l'incognito. Giancarlo, metti l'altra antenna, cambio. Comuto. Adesso comuto. Ecco, c'è qualcuno qua. Certamente che sì, buonasera, buongiorno. Ciao già. Allora. Claudio, ciao Gianni, c'è Daniele, amico di Canaglia, no, non Canaglia, cos'è, la corte. Ah boh, e chi è questo la corte, nuovo? Ciao Cla, buonasera. Ciao Massimiliano, buonasera, ben ascoltato. Tu ha detto che cambiava l'antenna e deve essere fra della Dremma. Io non ne so, boh, io non l'ho sentito. No, arrivava benissimo. Anche con l'antennino Santiago 1, con l'antenna della macchina arrivava a 5, boh, è sparito. E devo fare questo tipo? È l'accorte, Giancarlo ve l'accorte. E allora va bene, a voi, con l'antennino suo, Santiago 1 lì da te, ve ne pare buchi. Io lo capivo benissimo, segnale 1. Radio 3, un po' più bassa, però con l'altra antenna arrivava a 5,5. Buono, va bene. Alla grande, anch'io ce l'ho un portatilino. Oh, sì. Erano già arrivati 1, 2, 3. Uno mi quello che ti ho detto l'altro ieri, il Luxon è uguale a quello che hai tu. E poi ne ho due digitali io, Matti Gianfranco. Adesso lo fa la prova perché anche Gianfranco ne ha uno portatile digitale però. Buono, di marca buona. E voglio provare a vedere se da qua riesco a farmi sentire, solo che stamattina non ce l'aveva in macchina, ma la prossima volta che ce lo porta me la va a provare. 27. E 0,30, 9,27. No? Guarda, io avevo l'Excalibur, quello portatile, che c'aveva 80 canali, un portatile con 80 canali per banda. Era bellissimo, c'aveva il display con i canali segnati in rosso, poi c'aveva l'attacco per il microfono esterno. L'avevo dato, non mi ricordo a chi, in cambio di un apparato da stazione base. Vabbè, quelli lì sono CB, certo, vabbè, no, quello di Gianfranco è VHF e HF, bello, un bel portatile, l'ho visto in macchina, ho detto, ma lo volevo dare, invece poi stavamo parlando, ho detto, no, te ne dico, me ne ha dato altre tre, di cui due sono analogici e digitali e l'altro invece solo analogico, sì, ma si vede uguale a quello che c'è tutto, ho fatto la foto ieri, preciso identico, sì, uguale, ho messo qua sopra, ce li ho tutti, li ho fatti caricare, ce li ho tutti in ordine. Boh raga, io vado a farmi la spesa, devo farmi un po' di spesa. Non la giugana perché sono tutta dolore. Ci vado lo stesso, ma ti saluto. E vi auguro una buona continuazione. Dai. Ciao a tutti. Ciao già, ciao. Anche io ne ho tre, ho già. Ma è Ocla. Questo però è per la 27, questo fa 25 qualcosa e arriva fino a 30 MHz, AM/FM. Già va bene, ciao già, ci sentiamo, no? Daniele, al telefono te lo dico quanto te lo do a te. Gata, e che me? Sappi che te l'ho già detto una volta, che è meglio spendere qualcosa in più e prenderlo a posto che spendere qualcosa in meno e poi ce ne mette 200 sopra. Questo c'ha. Ok, te l'ho detto l'altro giorno. Questo c'ha scheda fonemi, c'ha tutte e quattro i filtri. uno per banda e poi è revisionato l'anno scorso, quindi meno di 4 non esce da qua, ok? Però con l'MC60, capito? Anda bene vera! Con l'MC60, 4 sacchi con l'MC60, perché senza l'MC60 queste radio a me fanno solo di schifo, devono andare col suo microfono dal tavolo, quindi considera che lo paghi 350 euro e 50 euro l'MC60. Comunque quando sei pronto te l'ho detto l'altro giorno e te lo ripeto, quando sei pronto vieni e te la prendi. Io già ho il 590, tanto la mano è scimmia da notti. Va bene, ciao, ma ci vediamo, buonasera, ben sentito. Ciao Daniele, buonasera anche a te, ben ascoltato. Aspetta, spengo i motori qua, che adesso non mi serve. Capra, capra, ti interessa uno scambio qua? Uno scambio? E che cosa? Una busta di plastica con un berretto di... per il mare. Io la metto via con un motore a scoppio. Vedete, sicuramente di quei 4 girate, perché se lo sei messo non è di me. C'ho 4.30, massimi di AI. Adesso appena arriva il 756 vediamo anche il 430 e lo facciamo ricontrollare a vedere queste perdite che c'ha, cosa dice. No, ne tengo una, Massimiliano, ne tengo una, però per Daniele, cioè, prima che prenda qualche fottitura, questa è tutta revisionata a posto, è completa di tutto, non ha bisogno di niente, anche perché chi l'ha fatta è di Sassari e c'ha le controballe su queste radio, quindi se la vuole è così, se non la vuole un bel 140, 200 euro c'è anche sulla piazza Milanie, se vuoi risparmiare c'è anche un 140, 200 euro sulla piazza Milanie. Intanto sempre 0,30 Allora, mi ho fissato con 4,40 e tu mi hai mandato di nuovo, mi ho fissato con 4,40, ah, ehi. È bello quello grande, cos'è? Un coso? Ce l'avevo anch'io quello, come si chiama? Ece Vittore. Ece, la marca, ce lo sai, no? La marca, cazzo, sono sempre chiaro. Ce l'ho dentro l'armadio? Sì. Simile a questo, Massimiliano. Fanculo. Alloci, cazzo. Simile a questo. No, oh, è uguale. Eia. Sì, bello quello, sempre da quello là? No, questo l'ho comprato tanti anni fa, da doppio rumo. No, questo è proprio il ricevitore. Sì, dell'Unide. Campasa. Vanno molto bene. Sì, Unide, KK, è proprio così. Tenete il gonto. Non vedo nessuno. No, non me l'ha redatto, uguale a quello che ho dato a te. Infatti me ne vedrà ancora il microfonino di quello e dell'altro. Raggio 4. Porca. Vabbè, aspettale col messaggio di Danielito. Riprendi Daniele. Vabbè, impurrato. Vai Daniele. Adesso ci sarà la scimmia, buonasera. È mancata la luce, sei forrato, mi ha mandato un audio, è mancata la luce, già rientra subito, ciao T, buonasera. Ciao a tutti, anche io mi sto rientrando al campo adesso. Al campo Romeri? Allora, non lo sai. Che miseria, cazzo. Ma c'è la scelmiera in quel campo Rom che vai tu, C'è birra, polpa del riccio, aragoste, poi tutto. Era in casa Giulia, però. Ciao T. Ciao Massimiliano. No, veramente, no. Ma lui al campo che ho ritirato a Gabriele. E poi ho fatto due tiri anche io a pallone col piccolino, ma... poi mi hanno dato la boccetta dell'ossigeno. Con la bippa. Quando non sai cosa fare, Massimiliano. Se ritorna bambino, hai visto? Claudio è... caso non ce l'ha, se no l'avrebbe visto anche lui. E cosa ti? Una fotografia ce l'abbiamo fatta con Nicolas. Non ce l'ho. E cosa non ce l'ho? Tu non sei facebookiano, te. Facebookiano? Facebookiano. Come lo detto Licca. Ciao Daniele. Ma io ce l'ho Facebook, ma entro pochissimo. Mi pare che... Vabbè, l'ha acceso da poco. Il computer grande, però sul telefonino no. Il computer grande già ce l'ho Facebook. C'è Massimiliano, c'è Luca del Monte, chi c'è? C'è Coso, 3 o 4, 5, 6, non so, ma già ce l'ho. Però non mi piace stare in mezzo leggeramente a me, è un mondo che non mi piace. No, qua ti correggo io. Cazzo, non è che è un mondo che non ti piace, è un mondo che ti crei tu, perché se tu la amicizia la dai a cani e porci, allora tutti quanti sanno i cacchi tuoi. Se tu adesso hai amici, solo i tuoi amici sanno quello che stai condividendo. Non è che io ne ho tanti amici, ne avrò, non ricordo neanche quanto ne ho, figurati, ma sono amici reali, amici che conosco, non ho gente che mi chiede l'amicizia solo per avere o per sapere le cose mie, capito? E si conferma, hai pienamente ragione. No, io inizialmente quando negli anni passati ne avevo quasi 6 o 700, cioè avevo tutto mezzo a Porto Torres, Sassari, Alghero, capito? E c'era un giro che non mi piaceva per niente, ho fatto click e me ne sono uscito. Mi ho fatto un account nuovo, se tu vai a vedere Claudio Sparviero Marti, quello sono io, mi pare ci sia come foto un MC60, capito? E sono io, quindi ci sono. Però non ho mai condiviso niente con nessuno perché non piace proprio a me stare su Facebook, capito? Non me ne affrutti nulla a me. Però è una cosa, è chiaro che se ti crei tu o la cerchia te la fai tu, è una cosa bella sicuramente, vero capo di Mugnè? Non è che vi ho seguito più di tanto perché mi stavo sbaciucchiando un po' con Gaia, capito? No, pensavo che ti sbaciucchiando con Lugani. Allora con Lugani è salita perché ieri le ho dato una punizione, quindi deve finire una pagina di compiti per studiare e poi le devo dare un gioco. Ah, che papà, se è vero che... No, è così, no, troppo storpia, come si dice, no? Quindi stava mettendo prima il gioco e poi i compiti e si era cucendo una lia l'una di notte e non va bene. Quindi adesso gli ho tolto un po' il gioco, prima i compiti e poi lo studio. Bravo. Vabbè, padri, certo rientrato sì. Una cosa fa bene, ma c'è un capo di bugnetta, sì, grazie. Allora, ciao, vicino di casa, buonasera. Ciao, Walter. Ha detto padrino, ha detto Fabrizio. Sì, della Massina Reggia, Massimiliano. Io Walter non lo chiamo diabolico, come lo chiamo padrino, hai capito? Testa di uccello. Io devo in gioco, come te lo chiamo, ma è vero, Walter. E allora, è battezzato. Va bene, ciao Massimiliano, ciao Tino, ciao Claudio. Sto arrivando, sì. Certo che sì, padri. Tutto bene? Sì, bene, quello che è bene. E il resto c'è la biglia chiusa, che ne frega. Io ascolto basso. Perché non usa l'altra radio? Facciamo utilizzare l'altra radio. Sto usando la Mantova 1. No, mi sta arrivando basso, capito? Anche di segnale. Non lo so. Passo perdere, mi è attaccato a te. È per quello. Sto facendo con 3 watt, su. E così ho una ventina di watt. Riesci a vedere. Ehi, ma non li bui di più, Chi me? Va bene così. Non mi piace. Ah, c'è la potenza bassa, mica c'è anche Daniele. Ciao Daniele. Buonasera, saluto le circolari a tutti, dai. Mi piace come sta andando, certo, questo è sposto. Da noi è passata 9.30, la mazza che te ne varia. Tappa, dimmi Massimiliano. Devo attenuare io, cazzo, ma stanno di fare 4 giri di Smith. Cazzo, da 9 a 9.30 è passato, da lì punti. È sempre diabolico mio padrino. Vabbè, che ci vuoi fare? Avanti, tiro. Anche io. Che vuoi fare? Mi ha spostato la lancetta da 9 a 9.30, ma vabbè. Siamo così, che dobbiamo subire. cazzo è micidiale quando attacca, è una cosa spaventosa, cioè sono 30 punti S, da 9 a 9 e 30 di colpo, boom, è esagerato, sarà così, va bene. Cazzo, ti faccio la foto e te la mando, 9 più 30 stai arrivando, poco fai di 9 appena sei entrato. Ma avevo tutto il RF power chiuso a zero e lì ce lo davo 2 watt. Ci hanno venuta. Da te Tino arrivo. Lo stesso, 9.30 ti ho guardato con l'altro però. Sto mugolando con il 48 io, tieni presente che sto mugolando con il 48. Ho guardato con l'altro 9.30 però. Va bene. Da Massimiliano sarà un po' basso, ma poi spengo tutto. Boh, aspetta, attimo che non riesco a leggere quanto mi sta arrivando, prova. Guarda un attimo. No, non ne ha oltre 9.40, se 9 non va. 9.40, vabbè, anche tu sei 9.45, 9.48 così. Questo è proprio oltre, al dB del 40. E vabbè, siamo a 200 metri, là, cos'ha? No, arrivi bene, tu arrivi bene. Cazzo, più lontano sono io, però arriva più forte di voi, lui. No, tu sei 9.12, lui è 9.48, nella 50 non ci arrivo. E Tino è uguale come te, forse un po' di più. E Tino è più vicino, e poi è agganciato, io ho 20 watt. No, no, non è quello, però ha detto che tu arrivi più forte di tutti e due loro qua. E vabbè, io sono attaccato, Oclava, capo del paragone che vende, cazzo, cioè c'ha l'antenna alta a 20 metri, cazzo, io vi lascio a 3 metri dal tetto, aiuta, fala bravo. No Massimiliano, a 20 metri non c'ho niente, l'antenna è a un metro bassa da terra, 5 metri, non ce ne mantovamo in alto, bassa. Ah, non è in alto? No, in alto c'ho l'antenna HF. No, Massimiliano, è attaccata al muro, cosa stai dicendo? Se no, non è quello che sto dicendo, però lui è agganciato, se tu agganci lo superi a lui. Dipende, dipende. Adesso è agganciato lui. No, così le prove, capito? No, Walter, non è agganciato lui, è sganciato, già lo so quando aggancia Massimiliano, arriva a 9.30 anche lui. No, prima era 9.35, adesso è 9.48 da me. Io non ho toccato niente. Allora, rendi conto, Walter, che questa radio c'ha un watt fissa di portante bianca intorno ai 30-38 modulati. Bello, infatti si vedono i picchi positivi. Guarda, per farti capire. Così sono al massimo dei watt della radio, e sarò intorno a una quarantina, 45, to. No, ma più di quello non vai, ecco, i picchi positivi. Oh, va, per dire, capito, e sono a 22 di portante bianca. Lo sai quanto sei salito? Da 9.10 già a 9.25. Se attacchi sei più alto di lui, ma lo sapevo questo. Ah, ma non posso attaccare, anche se li posso entrare con questi watt a quella farina lì, però non me ne affutti nuda, con un watt va bene, a voglia, tanto. Avvenne 50, avvenne 30, 35 va bene lo stesso. Sì, ma futasci a me, ho detto sempre a 20 watt e ce l'ho 4.40, di meno non lo metto perché mi fa la modulazione brutta, capito? Vai ti. Io sono piccolo, basso e nero sempre, cavolo. Cazzo vuoi, sei 9.25 e tu macio? Solo perché ho un 40 carai. 9.25 quella radio sta segnando qua Tino, poi è ottima e soprattutto la radio è molto bella. Vabbè, adesso ti consentire voi se... L'ho riportato io con un watt e mezzo di portante bianca, ok? Adesso attacco quello là, vediamo un po' se cambia, guarda il segnale tu, Claudio, ehi, la cambia con questo qua, vedi un po'? Quello qual è il Cobra? Questo è il Cobra, sì. 9.25, quanto è Tino mi si arriva? Aspetta, questo è l'altro, Walter. Là, e così è con la portante al massimo. Non so quanto sta andando perché non c'ho un watt metro attaccato qui, però sono più di 100 sicuramente. Quanto è Walter? Sì, 9 più 30. Guarda a me ora, 5 watt veramente, reali. Sì, a 5 watt sì, quante Massimiliano ha staccato praticamente, con un watt e mezzo però con l'altra radio, non col Cobra. No, questo è il Ruiz, Clark. 9.10 abbondante sì, così staccato. Bello, va bene. robe la radio ti è inutile, mentre con l'Alan 48 agganciato sei 9.25 e ti ho detto l'altro giorno che arrivi. Quanto è il 4.40? Già va bene, Daniele, lasciate un po' di spazio anche a Daniele in bianco. Già ci sono, vi sto ascoltando le vostre prove. Vabbè, Daniele, noi siamo vicini, tu sei così, con quel baracchino arrivi quanto Massimiliano agganciato. Lo so, dopo vicini siamo noi qua. Siamo in via d'Italia, Gino, che a 500 metri, le antenne si vedono anche se la tua è nascosta. No, Martino, per la posizione che hai, io so perfettamente dove abita, ha migliorato tantissimo, ma l'avevi sollevata ti l'antenna? No, effettivamente, vabbè, sono 6-7 ore, sono circa 8 metri di palo più l'antenna. Ma mi ricordo la prima volta che l'avevi montata, era più bassa però, ti ricordi? Quindi l'hai tirata su? Sì, la prima volta era neanche 4 metri dal tetto. Mi ricordo, ho venuto io lì, era bassa. No, ma anche Massimiliano non è molto alta, solo che è molto aperto anche per me. Cioè sono tutte e due a vista, sia Walter che Massimiliano. Io ho un palo, avevo messo un palo da 3 metri mi sembra, o da 4, forse da 4 metri. Però io il piede ce l'ho agganciato in un altro tetto, capito? Ti avevi visto qua com'è, uno dentro l'altro, non è altissimo, ma mi fa bene, auguglio. Come una chiacchierata in città, va bene. Niente città, arrivi benissimo, arrivi, io sono lontano da voi, non è che sono vicino. Arrivi benissimo, e poi quella zona lì è micidiale, è una bella piana di punti, una bellissima piana, riceve tutto, un po' di difficoltà su Alghero, ma verso le altre parti, anche Osero per esempio, Osero arriva meglio a te che a me. Come si chiamava quel tipo che parlava da dentro Alghero? Allora me ne ammetto. Vabbè, Giuseppe mi arriva bene, per esempio, è proprio dentro Alghero. Ti nasco, come ti cazzo chiamavi? Pinangelo, come ti chiamavi? Morto per... Vabbè, quello lì comunque lo sentivo bene. È morto, poverino, è morto. Mi dispiace. E poi ce n'era un altro che stava studiando per la patente di Bari, come ti chiama quel ragazzo che entrava? Ma Cavallino? No, non era Cavallino. Non era Cavallino, era un ragazzo che forse sistemava anche il radio, una cosa del genere. Ti ricordi che entrava spesso? Carlo La Parrera. Sarà Carlo La Parrera, sono giusto a sentirlo. No, anche Cavallino è morto. No, vabbè, D'Alghero, mi l'altro giorno ho sentito Sandro, Giorgione, poi chi è che entra D'Alghero? Giuseppe, poi chi entra? Valerio. Manni dice che deve mettere la radio ancora, cazzo, se va facendo un monumento di Mazzini. Allora, quel ragazzo mi pare che ci aveva il nominativo Conad, una cosa del genere. Ah, Sandro Conan, sì. Quello lì arrivava abbastanza bene, quello è lo stesso dentro Alghero, giusto? Sì, è all'ingresso di Alghero, via Dominzoni. Quello era radioamatore diventato. Infatti stava studiando all'epoca quando entrava. Sì, è diventato radioamatore, insomma quel nominativo che non ho mai sentito, lo sai il nominativo di Sandro Conan, infatti. Sì, a volte entra, qualche volta l'ho sentito qua a Sassari in macchina. Però non abbiamo fatto una prova ma non mi ha mai nominativo, a 5.25 non me lo ricordo. Ma è cosa che fino ha fatto Domenico? Non l'ho più sentito. Oh Walter, Domenico. KK, che fine ha fatto? Ho sentito stamattina io. C'è sempre la radio accesa, non lo sento più chiamare. Sull'R0 prima chiamava, adesso non sta chiamando più. Su 7 Alfa. Ah, sull'R7 Alfa sta chiamando, cazzo via. Mi è andato Giputa. Lì va. Mentre Olbia proprio, Caputti, adesso un giorno sta a sentire da Natale che non sento a Paolo. Stava parlando lui su 7 Alfa. Ma cazzo io ce l'ho acceso l'R7 Alfa, non chiama mai nessuno. Se non chiamo io, non chiama mai nessuno da Olbia. Scusate un secondo, mi sta chiamando Gaia, devo scendere un attimo. Non è da Olbia? Chi? Gaia. No, Gaia è lì da Sassari. Ieri ha visto a Iana con la bambina, mi ha detto papà, la bambina è arrivata, e tu ricordi, era già bella la piccolina. Era già carina. Beh, è bella sì. Era mamma, no, era uabo. Il contrario a me. Brava con papà. È che è più cattiva di Samuele? No. Ah. Non è cattiva. ma cosa la cattiva? Sveglia, grazie a Dio, insomma. Si sveglia, lo fa disperare a sangue. No, non ve ne è più pensieri dormiti, hai capito? Non ce n'è più, e va bene così, e allora rincoglionito come ero io da bambino, prima di chili, prima di fermi chili, poi di chili, non tocca chicchio, non tocca l'altro, ma vaffanculo. Ma va bene, dai. Ma va bene, i bambini di oggi già sono stati anche con i miei, sono molto più sveglio anche, ma c'è qualcosa nell'aria, A noi i cinque, io ero il più piccolo, la peste di casa, la mamma mangiava con un battipanni che era innanzi alla vacca, ma si può. Io intanto guarda, la piccola era grande, io c'ho l'aria, uno spettacolo di ragazza perché non mi ha mai dato nessun problema la vita, quindi ho lasciato sempre fare quello che ha voluto, nei limiti, nelle cose, però... Invece quando stai sopra alla fine li rincoglionisci, a 18 anni dici io sto scendo, già torno subito, cazzo non torno in più. Ma claro, non è così però. Massimiliano, per carità, ci vuole un po' di attenzione, bisogna seguirle perché anche io l'aria non è che la mollavo, però dal dire a quando siamo nati noi, cioè ti sto dicendo che mamma, cazzo non ti pulisci quando noi andavamo a casa della gente, no sai, e dici la vuoi una caramella, cazzo dovevo guardare mia madre per darmi l'ok prima di prendere la caramella, capito? Adesso no, adesso è tutto cambiato. Claro, ma io non le voglio far passare quello che ho passato io, capito? Cioè adesso giustamente come dici tu, i tempi sono cambiati, però allora forse boh, sono io un po' all'antica, cosa ne gioco, però un po' di regole dentro la casa ci devono essere, nel senso che lei sta andando a scuola, prima a me mi interessa chi studi, capito? Poi viene tutto il resto, il gioco, uscire, io non è che la stresso la bambina, attenzione, però mi dispiace quando inizia a mettere il gioco davanti allo studio, questo mi scoccia molto, capito? Perché non deve arrivare a fare quello che hanno fatto a me, è che a me a 12 anni babbo mi ha detto io scarpe grosse e a lavorare, tu non ne vuoi andare a scuola, e io a lavorare, io lei deve studiare, si deve diplomare, se ne ha voglia si prenderà qualche laurea, quello lo vedrà lì, però deve studiare. Penso anche io così. Sì, ma senza mai dubbio Massimiliano, per carità, io l'aria su quello battevo forte, perché anche l'aria giustamente era così, prima a giocare, poi no, prima si studia e poi, però l'ho seguita su quel piano lì, ma la libertà gli devi dare, guarda che l'aria c'ha 33 anni e quando esce poco perché è incasinata col lavoro, c'è turni di lavoro eccetera, ma Ilaria ha iniziato a lavorare dietro il bancone del bar che ci aveva 14 anni, a 16 anni se l'hanno portata fuori a lavorare a Reggio Emilia, ci è rimasta 6 mesi e io cioè soffrivo perché non c'avevo mia figlia a casa, una giuna come ti vai tu, però l'ho seguita e oggi a 33 anni Ilaria a me e alla mamma quando esce mi dice dove non è, con chi è, a che ora rientra, cioè non è di quelle ciao sto uscendo, è un cazzo, non è così che funzionano, le regole ci sono ancora oggi, ma non come le regole che dettava mia madre cazzo quando ero piccolo io, capito, che non potessi fare nulla, nulla di nulla, io Massimiliano il diploma me l'ho preso perché avevo quasi 40 anni, hai capito, perché mi sono ritirato da scuola per poter lavorare, per poter portare soldi a casa, e mi sono diplomato e avevo 40 anni, vabbè, a me lo studio non mi è mai piaciuto, la verità sì, cacca, e quindi esci bocciato una volta, bocciato due volte, la terza volta, e babbo già lo sa che hai poche parole, un po' già lo conosci, quindi si è messo io, scarpe grosse e a lavorare. Non me ne pento, attenzione, non me ne pento, perché però 40 anni fa non era come adesso, adesso ci sono tantissime cose, c'è molta tecnologia, c'è molta elettronica, che i bizzini sono tutti arruinati, guarda, telefonino, c'avevo 20 anni quando ho preso il primo telefonino, lei già ce l'ha già da 3 anni, già lo sai che vuole far viaggiare, no? Infatti, guarda, gli manca il latte della gallina che non esiste, claro, lui ha usato, io ne ho una, me la vizio, però ti ripeto, prima lo studio. Massimiliano, ma non per... puoi dire quanti anni ha? 10 anni compie. Ah, perché io ne ho uno di 13 e... è sputtato, sono tutti così, i suoi simili sono come lui. Perché che oggi la tecnologia è andata molto avanti e tu giustamente li devi mettere alla pari degli altri, capito? Perché è così secondo me. Cioè tu pensa che stavano facendo un torneo, è arrivato un ragazzo, chiamiamolo così, un ragazzo che non poteva giocare perché ha problemi al ginocchio, è entrato in campo, in panchina, si è seduto con gli amici e con loro per mano il telefonino, secondo te non volevano la partita? No, ma è così, secondo me, perché anche i ragazzini attraversando la strada, sono tutti a Cabuvascio, tutti con questo telefono, ma vai in macchina e stai messaggiando, vai così e c'è il telefono, e anche per noi un po', la verità, No, secondo me è più il gioco, questo gioco frontline, diciamo, che sono tutti online e quindi fanno le battaglie, fanno le truvi, fanno quelle piccole e quant'altro. Quello è un gioco da togliere, io l'ho già tolto io la Samuel. Si rincoglioniscono e basta. E poi istigano la violenza, come hai visto quei ragazzini minorenni che hanno attaccato quel vecchio perché guardavano quello GTA 5, cosa diavolo è, front time, questa roba di violenza. Calcio in culo, lui è front time. Sì, va, è d'accordo, cioè sono d'accordo, ma magari GTA 5 è più violento di questo qua, perché questo più che altro sì, si fanno le battaglie fra di loro, ma sono anche bellini a guardare, però lo istigano a fare ore e ore, buttato in canale sua, io infatti cosa faccio? Siccome la connessione la do dove sono io, non faccio altro che staccare il cavo e cavo la connessione, ma dopo un po' di ore, cioè voglio dire, non è che puoi stare 6, 7 ore, 10 ore buttato in canale tua, quando ci sono altre cose da fare per potersi divertire, capito? Quindi arriva a un certo punto, dopo superate le 3 ore, ne cade la connessione. È un casino comunque, questo Fortnite, questo qui arruende in mezzo mondo, secondo me. Sì, anche lei gioca con quello, poi si mette il telefonino, si fanno le videochiamate, no, tra tutte le sue amichette, capito? Casini, sopra il letto, televisione, capito? Il telefonino in videochiamata e giocando al suo gioco. Vai lì, la senti a voi, con le cuffie, col microfono, vai, una tua volta, vai. È vero, sta attento, c'è dietro di te. Mi viene a ridere, però molte volte già mi sale nervoso, perché lui dice cacchio, vai fuori, vai a giocare con gli amichetti tuoi, gli amici tuoi, altro che sta, penso un pochino alla patata. No, Ilaria ha 16 anni, mi pare, il primo telefonino gli avevamo regalato. No, non ne ha mai avuto di cose così, Massimiliano, cioè non aveva la passione, la verità, però è così. La colpa a volte è anche la nostra che li accontentiamo troppo, però cazzo cosa devi fare? Cioè quando ne hai una, certo non la avvizzi in una maniera, però è così. Va bene. Vabbè, che ci vuoi fare? Là? Abbiamo una e la avvizziamo, però ti ripeto quando il troppo storpia, quindi già da ieri in punizione. Allora, in poche parole, la PS4 l'ho spedita in Francia, è passato venerdì, è passato il Corriere e l'ha mandata in Francia perché stava giocando a Guito Yugo, si è messa la sedietta con le rotelle, si è buttata a gira e nella lampada interna si è rotto l'ardisco, meno male che era in garanzia e l'ho spedita in Francia a giustare. Adesso c'ha la Switch, la Nintendo Switch, che fa la stessa cosa della PS4 alla fine, no? Più o meno. Quella lì gliel'ho ritirata, oggi me l'ho portata al lavoro. Entra in voce, lo scavatore. No, dentro la macchina, l'ho lasciata in macchina, è la macchina mia, l'ho lasciata e me ne sono andata a lavorare e è rimasta lì tutto il giorno. C'è il vero, poverina, ah, ce ne sa. No, io Massimiliano tornando al lavoro non ho mai son pentito perché ho 60 anni e sono già un anno e più, già ho 6 a casa, quindi ho iniziato a 17 anni a lavorare, però ho dovuto morire di studi, Io la quarta e la quinta me l'ho presa, ma se mi ricordo se avevo 35, 32 anni, una cosa del genere, capito? Perché l'azienda davvero aveva necessità del pezzo di carta, altrimenti avrei perso anche il lavoro. E mi sono messo, lavoravo e studiavo e ho fatto quarta e quinta tutto in uno all'Europa. Quindi cioè, il discorso è quello, o studi da giovane e ti diplomi e c'è un pezzo di carta subito, perché poi viene molto male, ma molto male. Io ho fatto un sacrificio enorme, ma enorme. Però grazie a Dio non me ne sono pentito, perché a 60 anni sono già libero da tutto e mi godo la vita se Gesù Cristo mi lascia, e se no sarebbe del culo. Sì, ti godi la vita. Sei rappresentato in casa, se prende l'eremita, avanti, Walter, io tu. Ma che cazzo l'eremita? Ma dove vuoi andare, Massimiliano? Ma cosa ti dà questa città? Ah? Ci sono così friendly, per usare a chi sono così friendly. Non si vuole muovere nessuno da queste quattro mura, cazzo. Ma ti pare è colpa mia, secondo te? Non è colpa mia, Massimiliano. Perché a me andarmene da qua manco vero, mi sembra. Ma nessuno mi pare in intenzione alla Cina, no? Massimiliano, la campagna ce l'ha, ma non si è comprato la zappa. Sì, io vi avevo pure la zappa. Viene qua, mi zappa, aspetta un attimo, non è più niente, aspetta. Sì, a me credi come un fratello, noi ci conosciamo la vita. No, se ne vogliono andare da qua, cazzo, ma i vigili come eri. Vabbè, ci sono negozi vicino, c'è le conoscenze, c'è tutto, è logico che tu dovevi andare in campagna a vivere. No, se vedo perché c'è Anna e le ha fatti i capelli d'aria, cazzo me ne faccio la barrucca, cazzo me ne finito in basso. Ah, ma niente, non si chiama in faccia, cazzo. Cosa? Vabbè, tu dovevi andare a vivere in campagna. E allora? Cazzo, però non mi state convincendo molto. Ma Massimiliano ha detto che mi esce la gomma se vado a vivere in campagna. E vuoi che non te li piace due solchetti? Di erba. Ui. Mia madre venga la zappa a te. Oh, tu ce l'hai, però quella la lascia il Bastianino. Mi ricordo c'era un bel coso lì, dietro, soprattutto Fruttetto, ancora c'è. Guarda, quello che seguo io, e che purtroppo sono costretto a seguirlo perché sennò l'erba cresce, è il prato, niente di che. Poi tutto il resto fa lui, piantare fave, fisilli, pomodori, questa roba qua, prezzemolo, tutto lui fa. Io ancora niente, perché molte volte lo aiuto a fare solchi, però niente di impegnativo, e poi quando rientri dal lavoro, secondo cosa, ma si sta complicativamente a fare solchi, però quando è la giornata libera, insomma, un aiuto si dà. Vabbè, sì, lì è anche bello, perché c'è tutto davanti, però se ti metti a fare, a piantare, è un lavoro, sì. Cioè, la campagna per me deve essere a cemento, non me ne affrutti nulla. Cioè, vivere in campagna, pensare mattina e sera, zappa in mano, molto zappa, sì, è chiaro che l'erba la devi tagliare, devi curare, tenere tutto pulito, su quello non ci piove. Ma metterti a fare altro, no, a parte il fatto che io non sono competente, che non sono pianta, manco rubattato. No, io invece no, mi arrangio bene. Preso una falcetta, tranquillo, per le pochi ciuffi d'erba. Ah, e a te ti hanno entrato tutt'ino. Hai capito, ho comprato il tratto di la taglia d'erba. E già l'ho visto, sì, già non puoi dire che non sei comodo, un trattore, tutto va, cosa ce la ti manca a te? Non deve stare comodo e non stancarsi, il trattorino è bellissimo, ha usato cosa l'altro giorno, Fabrizio? Sì, ci siamo trovati stamattina, vaga, sono sceso a depositare degli attrezzi a casa e ci siamo trovati in strada. Sì, mi ha detto che c'era l'altro amico che insomma gli ha detto di tagliare l'erba per il cane, per il problema del cane, e si è messo a farsi un giro. Se non lo fermo, taglia l'erba sia un produttore. A me, però. E allora? Mi mai mezzati cappato, ma te li direi, ma... No, col trattorino non ce la va bene. Sì, ma invece quel presente una strada, quello l'asfalti. Dobbiamo fare uno scavo prima. Poi l'asfalti, spero, perché l'ultima volta sono venuto io, che mi avvoscio, d'ora. E poi vediamo, non ho soldi in questo periodo. Poverino. E non già così, già ne ho visto le palle, non c'ho solo quello. Sì, vabbè, ma lì organizzi la graviglia. Non si può fare tutto a cemento lì? Tutto si può fare, ma non le conviene fare la cemento. Deve fare altre cose prima di incementare. E la qualificazione per i lampioni? Quello è a suo gusto e piacere della gente. No, altre cose. Devo fare altre cose prima. Devo passare una tubatura. Ah, così è. Allora già va bene. No, quello viene bene. Quel vialetto fatto bene, è molto bello anche perché è ingresso privato, quindi viene una bella cosa, beh. Vabbè, ma però non mi hai detto niente, ti ho fatto sentire il ruisce, com'è? Già va bene, ormai sono stronato. Domani non scendo, così almeno lo mettiamo in vetrina. Non ho sentito, oggi non è venuto neanche Fabrizio, sono arrivati i cavi, bisogna abbassare i sistemi a uno e metterli appena tipo gli dice come. Lo so, stiamo parlando di quello, ma sta aspettando le mail. I cavi nuovi devi mettere? I tiranti. Ah, bene. Cosa stavo dicendo? Sì, scendere il Rose e fatti dare il Trump. Non l'ho mai sentito quel cazzo, pare un armadio il suo baracchino l'altro. No, è bello, è bello. O se no il coso fatti dare, dagli un Simba a Tino e gli attacchi l'MB più 5 e ti si rampa un 440. No, vabbè, adesso a giro li facciamo, li accendiamo, così almeno si... Ma questo ce l'ho per caricare giorno e notte acceso, poi quando devo modulare giustamente ho un'antenna, quindi devo spegnerlo, però la notte per dire lo lascio acceso. Ma lo sai Simba quanto esce bene, o col Tame più 3 o con l'MB più 5 o più 4. Io l'ho avuto tanti anni fa e c'avevo il Tamer più 2 da tavolo, ma c'aveva una modulazione splendida, a parte è fatta con una radio bellissima Simba. Guarda che ho mandato una fotografia di un vecchietto, guarda. Un vecchietto no, però questo non sei tu, questo è Massimiliano. No, non mi è arrivata ancora a te. No, te la mando anche a te, a Walter l'ho mandata, aspetta, te la mando anche a te. Che tanto non l'hai vista. Guarda la data. Massimiliano mi ha mandato un vocale che non può rientrare e sta aiutando la figlia a fare il compito. Vi saluto a tutti. Eia. È così. Stavamo giocando ieri. No, ma chi è questo? Ma tuo padre è questo, Walter? Dove? Questa foto chi è? Cosa ne so, lo stai guardando? L'ho mandato anche a te, Walter. Chi è questo, T? Su che, Ma chi è? Aspetta, adesso già finita. Aspetta un attimino, che la guarda. Lui dice Walter chi è. Ma chi è Italo, Ma cosa? Metti gli occhiali. Ce l'ho gli occhiali, non riesco a capire chi è. Antonio, chi è? Dammi di camminare adesso. Fammi vedere la parte, poi te lo dico. Aspetta che non l'ho registrato. Aspetta. Oh, non riesco a metterlo a fuoco, Non è un viso... Porca miseria. Fai che te lo conosci. Tanto la riserva, Ancora non ti do la risposta. Prendo l'MB più 5, no, non l'MB più 4 quello, no, l'MB più 5. Baracchino, non ci arrivo. È un viso conosciuto, ma età grande però. Vabbè, poi se guardi appena più su c'è un'altra radio. Non mi ha arrivato ancora. No, sei online, l'ho scritta. Io sono 140, dice, credo che sì. Mandamelo sul vecchio. Aspetta. Non ci arrivo, notti. Sono mandato anche io, però non si è connesso. Non sei online. Che? Aspettami, adesso l'ha visto anche lui. Sì, adesso l'ho aperto. ti dice, no, io non l'ho riconosciuto. Eh no, è camuffato con le ciglia del bar, sto cercando di capire. No, ma è chi c'è Italo, eh? No, mi sembra Tino. Cazzo Pusci! Sì, sono ti viene a voglia giocare, è la dura. Sì. È completamente diverso. Vabbè, ho fatto un montaggio. Okay, 40, 90 anni. Dove fatto 100 110? Ieri paranoia con Nicolas il piccolo. Mi che ti fa una fotografia. E gli ho fatto questa fotografia, è uscito lui con la pipa. Non sono io quello. Ma Walter, ma io ho su WhatsApp, ma non lo usi poco quel numero? Io ho tre numeri. Ma che cazzo io, ne hai tre? Io uno ne ho. A volte ti mando qualcosa e stai un mese prima di rispondere. Ma quello perché sto un mese io, no? Io perché non funziona, non funziona. Ascolta, il 590, il PS590 SG DSP, cosa ti sembra? Cos'è? Buono. Quale? Il tempo del PS590 SG DSP, com'è? Bello, come bel ricevitore, duro a trasmettere. Dopo te lo faccio sentire in AM, a sapere chi è. Ah, quello che è tu, bra. Oh, Peter. Ma Daniele, non c'è più. Ah, se n'è andato. Aspetta, sto parlando con Claudio. Eia. Vabbè, allora ci sono sempre qua, io vi sto ascoltando. Daniele Piumi. Gara. Ciao a San Marco, sempre da Alghero, sì. Ma devo fare domani che deve fare una cosa a casa sua. Domani mattina, in tarda mattinata, però mi faccio una scappata prima da te, che così ti sono questa radio, poi ci vediamo, là. Sì. La recuperiamo un'altra da esumare. Mi senti, Walter? Sì, benissimo. Questo è il 590, però c'è l'antenna di 10 metri, con la direttiva di 10 metri. La radio non va bene? Sì, benissimo. Sto dicendo, va molto bene. Abbiamo fatto la prova l'altro giorno con Tino. Va bene, l'ho regolata, sai, col menu. Giusto i parametri, però i parametri più settati sono in banda laterale. Tino, com'è il segnale con la direttiva dei 10 metri? Massino, prova. Polarizzazione orizzontale, cioè verticale. Però la modulazione va bene, no? Sì, molto sì, qua. Vabbè, no, era giusto per far vedere a Walter, sentire a Walter la modulazione AM. Ma è un ottimo ricevitore, veramente. Vi ascolto, una canonata. Sì, va benissimo, va bene, AM non so. Io l'ho visto in SSB 40, andava come un treno. Bella separazione, bella radio. Sì, ottimo. Ottimo, no, in AM tanto non mi interessa, già c'ho la mia bestiolina 440, però va anche in AM, quindi sono più che soddisfatto. Va bene, ricomuto. Avanti Daniele, riprendi. Anda Benevela, sì, no, sto finendo una cosetta qua, mio figlio, dai. E quindi mi sono dovuto assentare. Finita la pacchia qua, Tino. Franco, lasciala suonare che... Sì, si sente. E cosa? Mi sa che ci sopravvuto da un'ora. E chi ti? Un componente di casa, da Walter. E vabbè, ci vuole anche quella. Oh yeah. E che riesce la fisarmonica? No, la pianola, il pianoforte. Cristo. Sono visto i muriali. Ma poi ha avuto una bella idea di metterla a spalle alla stazione, quindi. c'è fratello mio. Proprio così, c'ho due mesi. Con la corrente. va bene. Lo sai che ho mandato il 756 a cambiare il display? La respirazione mi stava avendo. Cazzo, la volta fatta a Marco la CS Song. 200, 300 euro, dai, vediamo, ci mettiamo d'accordo che là. Mi ha dato un numero, 1 in 40 metri, non mi ricordo, Biagio, in 40 metri, mi ha dato il numero. 110 euro il display, 110 euro il display nuovo. Io l'ho mandato da Braga, anche se 2000, adesso mi pare che devo rimandare, intanto non va. Ah ecco, questo Braga mi ha parlato bene, Biagio. Sì, perché si è sonno, gliel'ho mandato, ho detto che non si poteva riparare, l'ho mandato da Braga, una radio me l'ha aggiustato. Ciao, porca miseria, questo Braga proprio mi ha accennato anche Biagio. Dice che lo cambia il display, che poi praticamente il display della prima serie del 756 è uguale a quello del 7004. Penso di sì. Mi devi mandare se già ce l'hai il mio su WhatsApp, mi devi mandare il numero di telefono e l'indirizzo e provo a sentirlo a vedere, perché 110 euro costa il display. Si può anche cambiare qua, però Carlo mi ha detto che è un casino cambiarlo. Secondo quanto mi prende, spedisco radio e tutto. È più economico degli altri. Cosa va? Più economico degli altri. Infatti aveva ragione Biagio, ma tu guarda che è molto serio, molto economico rispetto agli altri. Cazzo, 300 euro. Mi vale 400 la radio e spendo 300 euro per cambiare gli spedi. Ho fatto prima a prendermi la radio nuova, c'era il Biancuro. Però la voglio mettere a posto perché è molto bella quella radio, funziona molto bene, capito? Sì. Beh ragazzi, riprendo io che vi saluto e qua la cena è pronta, dai. Ci sentiamo alle prossime se coincide. Daniele, per il messaggio che mi hai dato, ce n'è una a Sassari che molto probabilmente la dà. La sto seguendo io perché me l'ha portata da poco a memorizzargliela e la vuole dare 200 euro. Se la dà ti avviso. Cava, poi voglio l'altro. Vabbè, tu vuoi passare dalla 500 alla Mercedes e con un'altra guba glielo sai. Va bene, dai, poi quando ci vediamo con calma già ti dico anche chi è, vediamo un po'. Se riusciamo a portargliela via già te la faccio prendere, dai. Cava, adesso vediamo di organizzare, dai, cla. Va bene, che poi mi serve pure un altro alimentatore, perché questi non ce la fanno, questi sono piccoli. Sì, gli alimentatori ne ho cantoni voi. Ne ho da 60 ampere, 50 ampere, 40 ampere, 35 ampere, 25 ampere. Voglio ormai di obbiano alimentatori. Ma c'è la cosa che ho dato, Daniele, non ne hai idea tu. Ho tolto una base già, proprio tolta a mezzo alle balle, e mi sono messo le radio che mi interessano. 590, 950, 820H, 275H, 430, 440. Adesso è tutto dentro l'armadio. Gaba, dai, quando ci vediamo ne parliamo in verticale, cla. Ok, dai, riprendete che io vi saluto e vado a fare la carica. Buon proseguimento e buon tutto, dai, a domani, ciao. Ciao Daniele, saluta babbo e mamma, già ci sentiamo, e a moglie e figlio, ciao. Tino, Veglia, ciao Daniele, ciao. Ci si riascolta, salutoni, buona carica. Ma che ne sono, le 8 ciò? Sì, adesso mi accendo il telegiornale. Pisciu, cazzo. C'è luce a gogo, manco, ma ne sono accorto, mi sono girato, prima ce l'avevo avanti il coso, l'orologio, adesso ce l'ho alle spalle, cazzo, già le 8. Bubù. E allora saremo e andiamo a papai. Va bene, a domani. Ciao padri, un piacere averti sentito, fatti sentire, noi siamo sempre qua, mi continuo facendo prove, provette e provoloni. Vai ti. Ma io sono una PC, mi sto pulendo il telefono che ormai non c'è più spazio. Sto togliendo forza e quant'altro. Va bene, dai, sono qua io. Ciao. Ci vediamo domani. Ciao, dopo. Ciao, ciao a tutti e due, ciao T. Poi ci aggiorniamo, magari, dai. Più tardi. Ehi, ciao, ciao. Ma tanto sono a pacchetto io, quindi. Ehi, te la fuga in giro. Fa un po' di vento una capra. Ciao? Ho detto, fa un po' c'è bisogno di usare il trattorino per tagliare l'erba. Ehi, trappadino, si è preso la falcetta. Che dici di sai che peli? Ehi, vabbè, dai. Ciao, ciao. Ciao, più tardi.